Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Credevo, la rincorsa al momento è riuscita, però mancano ancora 16 partite, mancano ancora molte vittorie. Stiamo cercando di ogni partita di portarla a casa, perché è una vittoria in meno che serve per arrivare in fondo. Per Higuaín! E chi se no, Gonzalo Higuaín! Parte Insigne! Una magia di Lorenzo Insigne! Il Napoli adesso è avanti, 2-1! Il primo posto in classifica, temporaneo, ma è riconquistato! Per 5 minuti, dalle 15.28 alle 15.33, il campionato è stato finito, seppellito dalla 12ª vittoria consecutiva della Juventus, che oramai nessuno riesce più non a fermare, nemmeno a rallentare, seppellito dal vantaggio dell'Empoli contro il Napoli per 5 minuti. Abbiamo avuto davvero la sensazione che fosse tutto finito. Poi il solito Higuaín, 22 gol in 22 giornate, Insigne 10 gol, questi due ce ne hanno messi altri 5 per restituirci la volata scudetto almeno fino a sabato 13 febbraio. Poi vedremo sabato 13 febbraio, il giorno di Juventus-Napoli. 800-24-0024, Claudia Schiattone autrice di questa puntata, Filippo Aureggi in regia. Se volete mandarci i vostri WhatsApp 349-238-6666. Carlo Genta, abbiamo sudato freddo per 5 minuti. Sì, però conviene fidarsi del Napoli quest'anno, perché è vero, è passato in svantaggio, ha fatto un po' fatica, però insomma alla fine poi ha dimostrato che vuole correre fino in fondo. La Juventus è pazzesca, la Juventus è impressionante. Non so se ha ragione Marocchi che le avversarie si scansano, io non credo. C'è certamente timore reverenziale di fronte ad una squadra che ormai è inarrestabile. Sì, anche se è incredibile, nel senso che non si può credere che si scansino in 12-15, considerata la Coppa Italia. No, ma questo non esiste. La Juventus è fortissima. Ha trovato il passo, ha trovato la squadra, ha trovato anche una formazione titolare, e questa è una similitudine con il Napoli, perché sia Sarri che Allegri hanno battezzato 11 titolari e salvo emergenza con quelli vanno. Poi Napoli ha... Poi se l'emergenza è che si fa male Mandzukic e Morata fa 4 gol in 4 giorni, Morata è forte, questa è la forza della Juventus. Ma magari forte. Possiamo chiedere ai nostri amici, visto che il tema gli avversari si scansano è un tema che vive, dalle famose parole di Marocchi, se vale di più questa striscia di 12 vittorie consecutive, questa di Allegri o quella di Conte 2 anni fa. Io ho una mia idea, poi ve la dico. Intanto saluto Enzo Bucchiani, ciao Enzo. Ciao anche a voi, buon pomeriggio, ben ritrovati. Ciao. Non si può ridurre tutto al fatto che gli avversari oramai sono intimoriti? No, assolutamente, non sono intimoriti. Questa è una grande squadra che gioca un calcio utilitaristico, ma ha trovato un equilibrio straordinario. Un calcio, qui abbiamo a confronto la Juventus e il Napoli, due squadre che giocano un calcio diverso, ma con la stessa intensità, la stessa potenza atletica, lo stesso. Due squadre che stiamo parlando della Juventus in particolare, io sono assolutamente sorpreso, per me valgono più queste 12 vittorie, perché riprendere una situazione come quella che ha recuperato la Juventus dopo 10 domeniche va a 12 punti in zona retrocessione, e possiamo dirlo, rischiavi di aver già buttato via tutto se non ci fosse stata la saggezza di un tecnico e soprattutto l'umiltà, perché Allegri dopo la gara con il Sassuolo ha raccolto le indicazioni dello spogliatoio e dei senatori che gli hanno chiesto di tornare a giocare il 3-5-2 che dava più garanzia a tutti, e così l'allenatore ha fatto, rimandando ad altri a tempi migliori il trequartista e tutti i suoi sogni, che non è segno di debolezza, no, assolutamente. È segno di grande intelligenza. Allegri è un allenatore estremamente intelligente. Io adoro gli allenatori che non sono prigionieri del loro modulo, della loro struttura, ma sanno capire quando è il momento di cambiare qualcosa. L'ha fatto Sarri all'inizio, no? Come sì, ci certo. ricordiamo, e l'ha fatto Allegri dopo Sassuolo. D'altra parte bisognava dargli anche un minimo di tempo per ricostruire una squadra che era totalmente nuova, quindi sì. Voglio dire, quella falsa partenza da Juventus è stata grosso modo fisiologica. Non dimentichiamo che questo allenatore in 2 anni non è ancora finito fuori da una competizione. Sì, quando c'è uno scontro diretto, posto che la finale è uno scontro diretto, e a Berlino la partita più importante l'ha persa contro una squadra stellare, però lì c'è forse anche la chiave della sfida che l'attende. Ma io, qualcuno sta cominciando a scrivere, il risultato della Juve è veramente triste, povero Chievo, gira un po' questa cosa per cui vincere nel campionato italiano sia diventato talmente facile, a parte un paio di partite, che sminuisca quasi i risultati di chi poi queste strisce le fa, e vale oggi per Allegri. Secondo me questo record di Allegri vale più di quello di Conte, pesa di più, perché fatto in condizioni diverse, cioè con la pressione addosso di rimontare, di non poter sbagliare. E perché allora Allegri nelle 12 partite ebbe solo il Napoli e la Roma, allora sì. Conte. Oggi Allegri ha dovuto battere Torino, Milan, Lazio fuori casa, Fiorentina e Roma. Quindi io penso che queste 12 vittorie di Allegri pesino più di quelle di Conte, che con oggi, non so se siete d'accordo, si toglie definitivamente di dosso anche l'ultimo feticcio che restava del ricordo per i nostalgici di Conte. Ma che no, passi, questo sono record, sempre i nostalgici di Conte. Ci sarebbero i 102 punti da battere, però. Vabbè, ma quella lì, in omaggio a quel record, Conte ha, non dico rinunciato a vincere, però così ha abdicato ad una finale, ad una Europa League che la Juventus avrebbe potuto portare a casa. Secondo me quel record è importante, rimane scritto nei libri, però non dimentichiamo che Conte aveva quella Europa League che poteva conquistare, sì, e che avrebbe che dato un altro che avrebbe dato un altro peso alla sua avventura alla Juventus. Enzo, si è tolto piano piano dalle spalle tutto dell'eredità di Conte, Allegri. Ma credo proprio di sì. Se l'anno scorso poteva essere una continuità, ha sfruttato molto del lavoro che aveva fatto Conte negli anni precedenti. Questa è la Juve di Allegri, indubbiamente. Ha cambiato moltissimi giocatori, ha cambiato l'ossatura, ha inserito dei giovani in maniera straordinaria, perché Dybala aveva fatto vedere le sue qualità anche a Palermo, ma qui siamo su un altro pianeta. Le pressioni, le tensioni, quello che ti chiede una squadra con la Juve l'ha risolto in un mese e mezzo, dandogli il giusto tempo per inserirlo, per capire dov'era, e ora sta facendo delle cose straordinarie, e questo è merito di Allegri. Ma tutto sommato, se vai a vedere anche il particolare Alex Sandro, è proprio la gestione del gruppo che mi piace di Allegri, come dicevi tu, e concordo perfettamente. Qui siamo di fronte a un tecnico che intanto sa cambiare le partite in corsa come pochi, e poi sa gestire un gruppo con grandissima intelligenza, grandissima umiltà, e questa è la sua Juve. Conte è dimenticato, Conte sta facendo il CT, resterà nella storia, perché quel record lì forse sarà irraggiungibile, noi forse non lo vedremo, un altro punteggio oltre i 100 punti in campionato, però è la storia. L'attualità dice che questa è una squadra completamente diversa. Poi è stata la Juventus, cioè ha sfruttato l'eredità di Conte per i primi mesi. È stato molto intelligente a sfruttare quello che aveva lasciato Conte, certo. Ma questo vale per i primi mesi, perché poi io ricordo bene dalla partita con l'Olympiacos in Champions League è diventata la Juventus di Allegri. Sì, ma vedi, l'intelligenza, l'anno scorso lui non ama il 3-5-2 Allegri, diciamolo chiaramente, no, è un modulo che se potesse non lo farebbe, e l'anno scorso ha cominciato con il 3-5-2 perché ha preso l'eredità di Conte, e giustamente un altro tecnico sarebbe arrivato e avrebbe detto: ora vi faccio vedere io, Conte è finito, sono Allegri, cambio tutto e vinco lo stesso. Sarebbe stato un errore colossale, alcuni lo fanno, guarda Benitez cosa ha fatto a Napoli, i disastri che ha combinato a Napoli-Benitez per il suo integralismo, e ne cito uno a caso. Non a caso, visto che si è fatta a Madrid. Quindi poi l'anno scorso ha fatto il procedimento inverso. Quando ha visto che la squadra era sua, che aveva in mano lo spogliatoio e il gruppo, allora ha cambiato, ha messo il modulo che tatticamente gli assomiglia di più, quello che lui sente più suo. Quest'anno ha fatto l'operazione inversa, è partito cercando il 4-3-1-2, il suo modulo senza trequartista, è tornato indietro. Quindi questo è un grande merito di un allenatore che non è mica alle prime armi, ha già vinto lo scudetto, ha già vinto con il Milan. Ma che qualcosa di simile aveva fatto anche al Milan, piegando alcuni suoi pensieri alle esigenze della squadra. 800 24 00 24, intanto su Sky hanno passato un parallelismo, c'erano le due finestre aperte, Insigne e Maradona. Adesso mi sembra si stia un po' esagerando, però Higuain e Insigne insieme, 32 gol, hanno fatto più gol loro due fin qui in campionato di 15 squadre che partecipano alla Serie A. Questo per dire anche la qualità di questo di questa coppia d'attacco. 800 24 00 24, sentiamo giusto la prima battuta di Montella, che ha perso ancora una volta con la sua Samp a Bologna. Microfono di Sky. Probabilmente avete regalato il primo tempo al Bologna, eravate riusciti a recuperare e poi è arrivato l'episodio del calcio di rigore che vi ha fatto arrabbiare. Sì, ma vorrei parlare di questo, io non pensare a questo. Sono certi comportamenti e certi atteggiamenti che danno fastidio e certe decisioni, ma è successo anche in passato in generale. Sono un uomo di calcio, non mi voglio soffermare di questo, perché se andiamo nei dettagli ci sono tante altre cose da quantomeno sono opinabili, no? Anche il fallo di Muriel lanciato verso la porta, un fallo diretto sull'uomo, poteva starci l'espulsione, ma sono situazioni di campo. Purtroppo dà fastidio perché stavamo recuperando la partita, perché... sì, è vero, avevamo... Però vediamolo questo episodio, perché comunque... Sì, episodio su cui credo ci sia molto da discutere, poi magari ne parliamo, perché hanno protestato, credo giustamente, abbastanza i giocatori della Sampdoria. 800 24 00 24, Cenzo Bucchioni, c'è il traffico, torniamo fra un minuto. Tutti convocati. Napoli ha colpito favorevolmente e piacevolmente anche il premier Renzi, che ha detto pubblicamente che il Napoli vincerà lo scudetto. Ecco, come ovunque, come... ecco, come commenta le parole del premier? Le parole. Ma non le omettono, non so quanto Renzi capisca di calcio, non. Spero che sia un grande intenditore di calcio, ma non lo so. Così ieri Sarri, la manovra Sarri, possiamo descriverla, Carlo? La manovra serve Sarri, una descrizione. Sotto il bancone. Ciao a tutti, ciao Ciccio, ciao gente. Ciao Sarri. Quest'oggi è normale, volevo dichiarare e posso dire che al 100%, passo dopo passo, piaccia o non piaccia, lo scudetto lo vincerà il Napoli. Giurin Giurello. È assolutamente certo. No, però Sarri non è d'accordo. Porto fortuna, Capuano, perché vi pippate tutti quanti? No, gente. Ma non siamo noi, è Sarri che non è tanto convinto che porta fortuna. 800 24 00 24. Ciao, adesso lo aspettiamo, Sarri, dopo questo 5-1. Enzo Bucchioni, a proposito di Higuain e Insigne, lasciamo stare il paragone tra Insigne e Maradona, però 32 gol in 22 giornate. Viene sospetto che il Napoli sia loro e poco altro. In realtà non è così. Anche oggi, insomma, anche partita alto. Bella. Doppietta, partita di bella. Caleon, anche che è tornato a segnare con discreta continuità. Io credo che non si possa discutere il fatto, Enzo, che oggi in questa stagione Insigne, lo dico dall'inizio, è il più forte attaccante italiano. Vogliamo dire che Conte non può continuare a pensare di punirlo per quella vicenda, insomma, del ritiro interrotto. Sarebbe come quello che taglia qualcosa per farsi dispetto alla moglie, no? Italiano. Sì, Conte non le taglia, assolutamente. Ora l'ha punito, ha fatto bene, perché ha dato un segnale al gruppo, a lui e a tutto il gruppo, ma la prossima convocazione sì, ci sarà, sarebbe assurdo. Sicuramente è il miglior attaccante italiano, qualità, quantità, però io dico un'altra cosa, non sono completamente d'accordo con la tua analisi, perché questi due giocatori c'erano anche l'anno scorso nella squadra di Benitez. È successa una cosa straordinaria, perché Sarri ha messo tutto il Napoli, tutti i giocatori del Napoli, ci metto dentro anche Hamsik e altri, nella condizione di giocare il meglio possibile, cioè di esprimere al massimo le loro straordinarie qualità, dando un gioco. In questo momento, se parliamo di gioco, il Napoli è in testa alla classifica perché ha un gioco superiore rispetto alla Juventus. Sarà interessantissima la partita del 13, perché sono due modi di giocare diversi, ma il Napoli gioca palla a terra, con rapidità, con dei meccanismi euclidei, se vogliamo fare una citazione che qualcuno ha fatto, molto classica e molto culturale. Quindi è un calcio internazionale, un calcio bellissimo. Io l'ho guardato anche oggi la partita. Intanto per la prima volta, perché oggi per la prima volta Napoli è sceso in campo non primo in classifica, per carità. Era anche un'illusione ottica, perché la Juve giocava prima. Ologramma. Però visto che 10-12 partite fa aveva la Juventus dietro per 9 punti, poteva anche scaricare un po' di pressione, eh. Questo ci dice un'altra cosa, che la squadra è matura anche dal punto di vista psicologico, per la tensione di essere stato scavalcato potevi pagarla, come hai detto tu, e la pagano le squadre che non sono mature, che non sono consapevoli della loro forza. Invece il Napoli è anche consapevole, perché è vero che lì davanti c'è Higuain, ma quando fai i movimenti la palla gli arriva sempre con i tempi giusti, nel modo giusto. È vero che Insigne ha due piedi incredibili, ma fa un grande movimento per la squadra, sì. Fa i tagli nel momento giusto, cioè è tutto un meccanismo. Guarda Jorginho, l'anno scorso Jorginho ha giocato pochissimo perché non riusciva a esprimersi, rimesso davanti alla difesa nella sua posizione è un playmaker di assoluto valore, sì, internazionale. A Benitez credo fischieranno e non poco le orecchie da qualche settimana, da qualche mese a questa parte. Grazie Enzo. Ciao Enzo. Grazie a voi, è sempre un piacere, a presto. Grazie ad Enzo Bucchione. 800 24 00 24. Scrive un amico invece via sms whatsapp 349 238 6666. Quanto vale Insigne? E se De Laurentiis ha i soldi per tenerlo? Ma sì, De Laurentiis ha i soldi per tenere Higuain. Ha i soldi certamente per tenere Insigne. Il Napoli è una grande squadra, credo che insomma, grandi affari valgono per tutti, Juventus compresa. Però non vedo un'emergenza o un'urgenza di venderlo, nei confronti di Insigne. Hai ragione, Napoli è andato sotto, è andato in campo, sì, sotto per in la classifica prima volta. Ed è andato sotto anche nel punteggio. Quindi per la seconda volta consecutiva sotto nel punteggio. Questo dimostra che hai nervi saldi anche. Assolutamente. Walter Novellino, buon pomeriggio. Ciao mister. Ciao. Quanto vale Insigne? Ma non in termini economici, visto che siamo partiti dal paragone Sky, le aveva le due finestre, Insigne e Maradona, che insomma è anche una bestemmia. Aspettiamo. Non esageriamo. Evitiamo accuse di blasfemia. Esageriamo. No, vale, perché ha qualità. Giocatori che hanno qualità ce ne sono pochi in Italia, un giocatore come lui che poi ti dà le superiorità numerica come ha fatto oggi. Credo che è stato un giocatore molto importante anche per la nazionale, anche se ha avuto un attimino inizialmente un po' di difficoltà, però il Napoli è una squadra che, come ho sentito prima, gioca a memoria. Sarri ha messo gli uomini al posto giusto dopo la partita con l'Empoli, se vi ricordate l'andata, sì. Ha provato Insigne come trequartista, che lui, non secondo il mio punto di vista, non sa giocare con le spalle girate alla porta, ha messo gli uomini nelle proprie posizioni e credo che abbia sfruttato le giocate. Sarri ha alzato anche la squadra di 10 metri, perché non dimentichiamo che la fase difensiva l'ha alzata, e il Napoli è la squadra che sta giocando insieme alla Juventus in questo momento il calcio migliore, anche se la Fiorentina, ecco, c'è un po' un piccolo calo, tra virgolette. Sì, che è un altro tema della domenica. Esatto. Fiorentina che ha chiuso attaccando, sfiorando anche la vittoria, però bisogna essere sinceri e onesti. Ha anche rischiato tanto. Ha anche rischiato tantissimo, rischiato e forse avrebbe meritato di perderla. Sì, ho meritato di perdere perché il Genoa ha fatto una grossa partita oggi, devo dire. Senti mister, io stavo elogiando gli allenatori, lo faccio spesso, gli allenatori che sono duttili mentalmente, cioè che non hanno una loro filosofia immutabile, intoccabile, ma come Allegri e come Sarri a inizio stagione sono in grado di seguire la squadra che hanno in mano, cioè non, senza dogmatismi, senza essere prigionieri di un modulo. Sono flessibili, serve cambiare idea, cambiano idea. Non sono integralisti, tra l'altro, esatto. Però credo che hanno sposato un tema importante, perché la Juventus, il 3-5-2 è nato, tra virgolette, con Conte, di là il 4-3-3, proprio nato, non lo so, con Benitez faceva un 4-2-3-1 che facevano, secondo me, molto fatica. Ho sentito prima chi parlava che ha... Jorginho, sì, è stato, ecco, l'innesto di Jorginho lì in mezzo. Sì, c'è un amico che ricorda che è convocabile da Conte. Esatto. Esatto, no, ma ecco, non sono integralisti. Non sono integralisti, sono allenatori che sanno anche ascoltare i propri giocatori, perché sanno vedere e ascoltare e vedere in modo particolare le loro caratteristiche, dove le qualità di questi in queste situazioni si emergono. Ma a proposito di flessibilità di allenatori, tu Insigne e Jorginho te li porteresti agli europei? Ma sì, penso Insigne sicuro. Sulle Insigne spalle, sicuro. Insigne in braccio. Insigne al momento è fuori, vi ricordo. No, non scherziamo, non credo, dai. Assolutamente. Non scherziamo. Conte non è uno stupido. Certo. Invece sei d'accordo che Paolo Sosa sta pagando un po' di immobilismo dei Della Valle? Fiorentina che è in netto calo, ieri Sosa, poi magari lo sentiamo, si è un po' arrabbiato. Non sono d'accordo. Fiorentina è stata criticata all'inizio della stagione, adesso è criticata perché io credo che i Della Valle stanno facendo hanno fatto una buona squadra. È ovvio che non è una squadra da vincere il campionato, è una squadra è una squadra di grande qualità e che ha portato lui qualcosa di suo, però non dimentichiamo quello che aveva fatto in passato con Montella, aveva fatto bene lo stesso. È chiaro che la Fiorentina in questo momento, secondo il mio punto di vista, sta pagando una certa stanchezza mentale, perché era la squadra che giocava fino a un mese e mezzo fa il miglior calcio, secondo il mio punto di vista. Forse sta pagando un attimino la mancanza di un goleador, la mancanza di uno che... Sì, vi do un numero, Kalinic 10 gol, ne ha fatti 9 nelle prime 13 giornate, solo una contro il Chievo dal 30 novembre a oggi. Non per niente ho detto che gli manca un uomo che importante, ecco, un uomo che è un trascinatore. C'hanno Babacar che è bravissimo, ma è giovane, c'hanno Kalinic che ha fatto, come hai detto te, secondo il mio punto di vista, ecco, manca un uomo in difesa e un uomo davanti, ecco. Secondo me. Sì, ma sta facendo il massimo comunque la Fiorentina. Non hanno senso le critiche che ogni tanto si sentono né nei confronti dei Della Valle né tantomeno nei confronti di questa squadra. Sono cose che hanno pochissimo senso, secondo me. No, però se avete ragione voi, questa sera il Milan, vincendo il derby, andrebbe a 6 punti dal terzo posto di una Fiorentina che evidentemente è in questo momento sovrastimata come possibilità. Il che apre, secondo me, a un derby che mi spiace per Barbara Berlusconi, è un po' prematuro dire che il Milan quest'anno non ha altri obiettivi se non l'Europa League. No, io sono d'accordo con lei di Barbara. Non lo so, sentiamo anche gli amici da casa, 800 24 00 24. Grazie Walter Novellino, grazie ciao, mister. Grazie. Ciao, un abbraccio, ciao a tutti. Ciao, alla prossima. Sentiamo Marco da Bologna, ce la facciamo prima della pausa. Marco. Buonasera a tutti. Eccoci. Gradirei da parte vostra un paio di giudizi sui tre giovani del centrocampo del Bologna, Rizzo, Donsa e Diawara, e un giudizio sul livello medio del giornalismo in Italia. Beh, soprattutto alla luce di Juventus e Napoli, prima e seconda in classifica, e alla luce del loro inizio. Non è che magari a Roma e a Milano si siano sbilanciati troppo nelle giornate precedenti? Sì. Grazie, arrivederci. Ascolta Marco, adesso lasciamo stare il giudizio del giornalismo. A Roma è tutto l'ambiente che ha ritenuto di dover vincere questo scudetto per diritto divino dopo due giornate, perché la Juve era partita male e la Roma oggettivamente sulla carta aveva un'ottima rosa. Sui giovani del Bologna a me piace tantissimo Donsa, ma non piace solo a me, piace in giro a diversa gente, tanto che la domanda di prima relativa ad Insigne, insomma, potrebbe essere girata, anche se Bologna ha grandi ambizioni, però io credo che Donsa sarà uno di quelli intorno ai quali si farà mercato. Assolutamente. 800 24 00 24, torniamo subito. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, ciao Pier. Come va? Bene, di ritorno da Verona, no? Sì, di ritorno da Verona. Dove, ciao Ciccio. Stiamo tessendo le lodi della Juve, però aspettate, vi fermo perché ai microfoni Sky c'è Paolo Sosa, che è un altro dei protagonisti di questa domenica. La Fiorentina cerca un difensore, forse oggi, però è mancato qualcosa là davanti. Io rido perché sono un protagonista, e ancora oggi, anche velocissimo. a cercare di portare via la palla. Poi lo faremo vedere perché lo stopper era meraviglioso. Paolo Sosa ha fatto un'ingenuità clamorosa al momento dell'espulsione, poi la raccontiamo, però sentiamola. In questo mondo del calcio, questa è la mia vita, la mia passione, per questo, questo noi sappiamo che questo fa parte del calcio, cerchiamo di convivere il migliore possibile per prendersi le decisioni giuste e migliorarsi continuamente per arrivarsi ai risultati. Ma si aspetta qualcosa? Mancano ancora 24 ore alla fine del mercato? Io ho già parlato tantissime volte, cioè non ho bisogno di ripetermi così tanto. Io credo che dobbiamo esserci concentrati, io sono concentrato a migliorarmi, a migliorare la mia squadra per essere competitiva e cioè, vincere le partite difficili come questa di oggi, in un campo che sapevamo che era difficile contro una squadra che molto competitiva, cioè normalmente pressa tantissimo, tante volte al limite del fallo, c'è cioè, tanti duelli individuali, cercando gli anticipi, cercando quando non riesce a fare subito fallo per andarsi in contrapiedi. È stata una partita molto in salita dalla parte nostra. Questo Paolo Sosa, un po' infastidito, Pier, al tema mercato. Secondo me ha ragione, perché ha costruito un miracolo col girone d'andata, ne parlavamo anche prima, ha bisogno di un difensore e insomma ieri ha capito che non arriva. Kalinić in calo. Giovanni, la dimensione della Fiorentina, cioè non avrebbe senso adesso svenarsi per migliorare la squadra in questo momento. È una squadra che è un'eccellente base di partenza, che se ci saranno le possibilità verrà migliorata con il tempo e strada facendo. Tanto lo scudetto non ci arriva, anche sì, però lo scudetto della Fiorentina è il terzo posto. Non si parla di scudetto, sì. Pier, e secondo me mai come quest'anno ha la possibilità di prendersi il terzo posto. Qui bisogna cogliere l'attimo, va bene le alchimie di bilancio. Sono ancora convinto che se la Roma riesce a fare pace con se stessa, a darci una sestata, può tornare in corsa per il terzo posto. L'Inter ovviamente c'è, vediamo. Magari c'è il Milan dopo stasera. No. Ma la Fiorentina, diciamo che di tutte queste mi sembra quella che sicuramente è iscritta a questa lotta, quindi un investimento ci potrebbe anche stare da questo punto di vista, sinceramente. Mi sembra che il campionato si sia normalizzato, nel senso che comunque alla fine Napoli e Juve sono le due squadre più forti e mi pare che non ci siano più discussioni. Oggi per 5 minuti abbiamo tremato, Pierre. Per 5 minuti quelli intercorsi tra il gol dell'Empoli e il pareggio di Higuaín. De Luca ha tremato, i tifosi della Juve. Io ero siamo al 31 gennaio, Pier, diciamo certo, la verità. Dici che finisce subito. No, sicuramente è positivo se c'è equilibrio, ma l'equilibrio secondo me ci sarà, perché comunque questo Napoli ha dimostrato di essere all'altezza, la Juve pure, quindi io da questo punto di vista sono abbastanza sereno. Certo, la Juve in questo momento sono due magnifiche squadre. La Juve sembra ancora più solida, cioè, stiamo proprio parlando di dettagli, la Juve dà l'idea di essere ancora più solida, però c'è anche da dire, l'avevamo detto in fase anche di presentazione, che il test dell'Empoli in questo momento è molto più significativo. Io oggi ho commentato Chievo-Juve, sì. Oggi Chievo era senza Paloschi che è partito, senza Cesar squalificato, senza Temai, senza Gamberini, senza Pepe, senza Isco, parliamo di una squadra. Sì, ecco, purché non tiriamo fuori il discorso che gli altri si scansano. Infortuni e squalifiche, sì, infortuni, sì, certo. Squalifiche e la cessione di Paloschi che è servita per monetizzare, ma che insomma boh. Ma sai perché ci sembra più solida, Pier? Perché siamo abituati a vederla lì e la Juventus è abituata a stare lì. Secondo me è solo una questione di abitudine, perché anche oggi il Napoli, dai, nervi, qualità, eccetera, va in campo sotto di un gol, non fa una piega. Fa una piega e poi ne segna 5. 800-24-0024. Prego, Pier, poi abbiamo Matteo e Alessandro. Stavo ascoltando prima e effetti la sottolineatura di quella... Il primo posto virtuale della Juve merita di essere appunto detta, perché comunque il Napoli ha avuto anche quel pensiero in più, no? Il fatto di scendere in campo non più da prima in classifica, di andare sotto nel punteggio, e quindi questa è un'ulteriore dimostrazione della forza anche caratteriale, della forza tecnica. Certo. Matteo da Roma. Matteo. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Intanto. Allora, no, io da juventino intanto volevo fare i complimenti al Napoli, perché sta facendo secondo me un campionato straordinario, ed è bello forse per la prima volta in 5 anni vedere un campionato che abbia veramente un antagonista, perché a parte la Roma il terzo anno, l'ultimo anno di Conte, l'anno dei 102 punti per intenderci, non c'è mai stata una vera e propria competizione. Mentre invece quest'anno col Napoli, specialmente da secondi, è bello vedere questa rincorsa della Juve, specialmente dopo la partenza con l'handicap. No, ma infatti stiamo tutti facendo il tifo per un duello che vada avanti il più possibile, magari fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Stiamo facendo tutti il tifo per quello, per avere uno sprint a due, non un arrivo solitario. Okay, che poi se la buona sorte conserva Higuaín e Insigne in queste condizioni, detto che non sono solo loro il segreto del Napoli, si può veramente andare avanti fino a metà maggio e il Napoli fino a prova contraria è sopra. Alessandro da Milano, Alessandro. Sì, buonasera a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori. Eccoci, dai. Allora, io volevo parlare di Milan, di derby, visto che questa sera abbiamo l'ennesimo derby, sono 3 anni che però questo derby è fine a se stesso. Mi sembra un po' meno quest'anno, Alessandro? Mi sembra un po' meno fine a se stesso. Soprattutto per l'Inter. Per l'Inter però, per il Milan sono tre stagioni che... Ti leggo la classifica, Fiorentina 42 punti, Inter 41, Roma 38, Milan 33. Ora, mi dovete spiegare tutti... Perché dovesse vincere il Milan questa sera, quindi il derby non è fine a se stesso, salendo a 36, il Milan deve chiudere comunque mentalmente con 16 giornate d'anticipo alla giornata. No. Aspetta che ce lo spiega Alessandro, poi gli rispondiamo. Alessandro. Oh, ve lo spiego così, perché in questo Milan, per la prima volta da quando io mi ricordo non c'ero, però comunque di Cesare Maldini, quindi il papà di Paolo, no? In questo Milan non c'è un capitano, non c'è un leader tecnico, non c'è una guida, non c'è niente, non c'è nessuno. Io salvo la proprietà, la presenza dell'allenatore che non è responsabile. Dopo ditemi voi chi è il capitano del Milan, fatemi il nome del capitano del Milan. Sì, il capitano è Montolivo, poi a voi tifosi del Milan non piace, quindi però no, c'è il giro di peggio. No, ma ragione, non è questione di qualità del giocatore, è una questione di leadership, ma l'abbiamo detto mille volte che questa squadra manca in maniera evidente e in ogni reparto. Pier. Però ha ragione Capuan, secondo me. Cioè, stasera si è ammesso e non concesso che il Milan vinca, perché ho scritto da nessuna parte che è una partita veramente una tripla, quindi è tutto da vedere. Però è chiaro che se il Milan vince con sé sarebbe un segnale molto forte, no? Comunque, perché con 16 giornate uno non può pensare di recuperare 6 punti? Ma per il discorso di cui sopra, Pier, anche una questione di qualità, cioè chi sta davanti al Milan è più completo. Con tutto il rispetto per la Roma di questo periodo, per l'Inter, vedremo stasera se reagirà, e per la Fiorentina, il Milan non ha una qualità così infinitamente inferiore da non poter essere ma anche perché, Pier, è una corsa fra imperfette. Aspetta che coinvolgo anche Toni Damascelli. Ciao Toni. Buon pomeriggio a tutti. Stiamo ragionando coi se, Toni. Coi se? Però, insomma, perché il Milan si deve autoescludere a 2 ore da un derby, con la Fiorentina infrenata, la Roma che ha i problemi che ha, l'Inter che tolte le prime 5 giornate, io lo ricordo, tolte le prime 5 giornate ha corso a 1,56 di media, neanche da Europa League, il Milan si deve escludere prima di un derby dalla corsa della Champions. Io questa è una cosa che fatico a capire. No, ma guarda, hai fatto bene, però qui corrono tutti per la Champions, ma qual è il ritmo di questa corsa? Ma è un ritmo che può tenere anche il Milan, è questo il tema. No, ma dico, no, non parlo del Milan, non parlo del Milan, parlo di coloro i quali pensano a un posto in Champions, ma dove vanno giocando così? Dove vanno? Cioè il Milan può vincere questa sera, no? Può vincere, secondo me tra le due quella che non deve perdere è l'Inter, non è il Milan. Questo è chiaro, è estremamente... ma non deve perdere, non deve perdere, non perché pensa ancora alla Champions, perché non è una squadra. L'Inter non è una squadra. L'allenatore dell'Inter, che non ha mai conosciuto il pane nero nella sua vita di professionista, non ha ancora capito come far giocare questa squadra. Tu vai a prendere uno da Monte Carlo, da Monaco, come con Dobbiá, che era abituato a giocare insieme con Moutinho e Toulala, e lo metti con Medel e Felipe Melo? Lo faccio io l'allenatore. Primo. Secondo, sei così capriccioso che hai voluto prendere un'altra punta? Sei così capriccioso da non capire... Secondo te Eder migliora o no l'Inter? Eder è un buon giocatore, ma non, per migliorare bisogna avere un'idea di gioco. E l'Inter, secondo me, a differenza del Milan, che gioca un ritmo lento, a volte anche scontato, il Milan ha un paio di sicurezze per il futuro. Il portiere. Sì. Romagnoli. Sì, qualche altro ragazzo italiano. Voi ditemi... Ha ricominciato prima... a costruire il Milan a differenza degli altri anni. Sì, comunque ha preso questo ragazzo, ha rischiato con questo ragazzo che è il futuro del calcio, del ruolo di portiere nei prossimi 20 anni. Non ci sono dubbi. Il problema è all'Inter. Fatemi un nome. Sì, l'Inter... Ha dei giocatori, e lo dimostra anche la traiettoria di mercato dell'ultima estate. Se l'Inter ha voluto vendere, ha venduto, cosa che il Milan non poteva fare perché di qualità ne aveva poca lì, avendo fatto per anni il mercato dei parametri zero. C'è anche questo, Tony, secondo me. Sì. Poi, oggi, poi il tema è aperto. Qual è il giocatore del futuro dell'Inter? Ma io credo che l'Inter abbia un attaccante Icardi che attraversa un momento un po' così, ma è uno che i gol li fa ed è, credo, un classe 93, correggetemi se sbaglio. Domanda, ma come mai l'allenatore a Manchester litiga con Tevez, litiga con Balotelli, arriva a Milano, litiga con Jovetic, litiga con Icardi? Perché ha il carattere fumantino. No, non ha il carattere fumantino, perché lui pensa ancora di essere calciatore, e vi ricordate che tipo di calciatore era in campo? Si perde con gli arbitri, mentre il suo assistente è costretto a spiegare lui alla squadra come comportarsi. Se chiacchierasse di meno con gli arbitri, i quarti uomo e il quarto uomo, e si preoccupasse di più del gioco della squadra, io ritengo Mancini un buon allenatore, non un grande allenatore, fortunatissimo, ma questo non è neanche una cosa. C'è che ha scritto molto in questi ultimi giorni che è più un direttore sportivo che un allenatore, però vi fermo qui perché c'è il traffico. Tony Damascelli resta con noi perché poi schiudiamo anche la pagina sulla Juventus. C'è Pierluigi Pardo, 800 24 00 24. Partita in bilico, spot per noi. Tutti convocati. Convocati. Ancora Rick Steiner, palla sul destro, conclusione, Morata, 1-0 Juve, Morata si sblocca. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Palla per Khedira, che la mette in mezzo, Morata, 0 Juve, un orologio perfetto, un meccanismo letale. Non sarà un'avventura. Ti senti rinato, era un incubo per te? È vero che mi sento bene, sto meglio anche fisicamente, non stavo male fisicamente, però la testa ti fa stare un po' meglio. Ci sono delle volte che ho fatto giocate incredibili e non entrava la palla, oggi due calciarla solo dentro la porta, però l'atteggiamento, sono felicissimo perché si vede che la squadra gioca ogni giorno meglio, che è molto difficile vincere contro di noi e dobbiamo continuare così. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu. Quanto sembrava un mostro, oggi lo hai anche raggiunto come numero di vittorie in campionato, questo mostro come ti sembra? A me del record non mi interessa assolutamente niente, mi dispiacerebbe magari fare 20 vittorie di seguito e poi dopo perdere il campionato, preferisco farne qualcuna meno, poi cercare di vincere il campionato alla fine, che è quello che conta. No, non sarà un'avventura. Questo Allegri, grande. 800 24 00 24, domanda per Tony Damascelli e Pierluigi Pardo. Il tema l'abbiamo aperto alle 17, coinvolti anche gli ascoltatori da casa. Vale più il record di Conte, e noi ci siamo espressi, o quello di Allegri? Tony? Ma i record vanno confortati, ha detto bene Allegri, vanno confortati alla fine, altrimenti vengono dimenticati. A meno che non siano record veramente storici, per cui non so, un portiere che non prende gol da 6.000 minuti, uno che segna come in questo momento Higuain, 22 partite, 22 gol. Quel record di vittorie consecutive ti dice che qualcosa è sbagliato in questo campionato di calcio, non è possibile. Non è possibile fare tutte queste vittorie consecutive, poi aggiungiamo anche quelle di Coppa Italia. È possibile, cioè, o meglio, è possibile perché il livello medio è bassissimo nel nostro calcio. Sì, anche se però, la Juve ha dovuto battere Torino, Milan, Lazio, Fiorentina, Roma. Verissimo. Infatti, se ci fate caso, questi nuovi record, anche quello delle vittorie dell'Inter di Mancini negli anni ovviamente in cui la Juve era in punizione, la Roma provava a opporsi all'Inter in qualche modo, cioè, negli ultimi anni le 11 vittorie di Spalletti, c'è stata una proliferazione clamorosa di questi record, il che significa che la distanza fra le grandi e le piccole è aumentata, la forbice fra i ricchi e i poveri nel calcio italiano, nel calcio internazionale, questo vale anche all'estero, si è, secondo me, purtroppo, perché l'equilibrio a me piace di più del disequilibrio, nettamente rafforzata. Sì. Detto questo, per me Allegri sta facendo un capolavoro e ci sono cose che possiamo anche semplicemente liquidare con il concetto di culo, ma non è così. Cioè, il fatto che Morata improvvisamente risorge quando Mangio che ci si fa male, possiamo pensare anche al culo che c'ha Allegri. Io penso invece Sono troppi indizi, infatti... più chiaramente che la capacità, il lavoro che lui ha fatto su Dybala, allora innanzitutto il lavoro che lui sta facendo su Dybala una roba fuori dal mondo. Nel senso che Dybala Ma che lavoro ha fatto su Dybala? Dybala è forte. Dybala è un fuoriclasse. Dybala, io l'ho visto giocare all'inizio nel Palermo e mi chiedevo perché giocasse nel Palermo. Sì, ma se confrontiamo la stagione scorsa, come? No, dico, se confrontiamo la stagione scorsa, che comunque sta la partita. No, ma non puoi confrontare la stagione scorsa. Il giocatore c'è. Se uno a 18 anni, a 19 anni, se gioca in una certa maniera, i casi sono due. O gioca con dei bambini, degli infanti, quindi è un fenomeno grazie a questo. Oppure vuol dire che ha le premesse del fuori classe, non del campione, del fuori classe. Oggi la palla di Dybala data al compagno Alex Steiner sul gol è la palla di un fuori classe, non di un campione. Non c'è dubbio. Il signor Allegri ha preso Dybala, pagato 40 milioni. Bravo, apposta lo dico. Pagato 40 milioni e cosa deve fare Allegri? Gli deve insegnare a giocare a pallone? Dove deve andare? No, però... Dybala sempre ha fatto delle partite col Palermo qui a San Siro, fenomenali. E uno non sapeva mai se era una punta, se era un trequartista, se era una mezza punta, tant'è che tutti discutiamo. Sì, se è una prima, una seconda o chissà che cosa. Lionel Messi, al di là del fatto che vale meno... Lionel Messi cos'è? Un attaccante, un centrocampista, un trequartista... Non lo vedi e lo vedi dovunque nel campo. Dybala scompare, appare, sta in tutte le parti del campo. Mi ricordo quando il signor Allegri diceva deve abituarsi a prendere i falli, ma lui li cerca i falli, lui cerca il contatto, non scappa dal contatto. Detto questo, Dybala ha giocato 31 partite, ha fatto scalpore perché ne ha faltata una particolarmente importante e c'è stato dibattito e da quel momento in poi è stato un Dybala ancora diverso e ancora migliore. Ma Piero, tu hai buona memoria. Ma io sono d'accordo sul fatto che sia un fenomeno, però secondo me, scusami, un ragazzo del 93 al primo anno alla Juve faccia così bene, non dare dei meriti. Un ragazzo Gianni Rivera, 17 anni era Gianni Rivera, i Beatles a 18 anni erano i Beatles, non parliamo di altri calciatori. Tu hai buona memoria, all'andata Roma-Juventus fu una marmellata. Chi fa gol per la Juventus appena entrato? Dybala. Ma nessuno discute questo, però... Qualcuno invece pensa che Dybala sia figlio di Allegri. Allora diciamo che è figlio di Zamparini. Penso che sia figlio di Allegri. O di Mascardi. Sia figlio di Allegri. Penso però che un allenatore è la sintesi tecnica... Aspettate un attimo. Dybala è migliorato grazie ad Allegri. Pogba è migliorato grazie ad Allegri? Ma è fortissimo e continua a crescere. No, non ho detto sia fortissimo, ho chiesto se è migliorato. Faccio un'altra domanda: quando tutti volevano Morata e invece Allegri aveva scelto Mangio, che c'era scelto stessissimo e i risultati gli hanno dato ragione, sembrava matto. Stiamo parlando anche di un allenatore. Io non sto mica dicendo che sia un bluff, un scherzo. Sto dicendo che quando tu devi gestire un gioiello come Dybala, possiamo farlo tu e io. Tu e io un po' meno, Tony. Aspettate, vi devo fermare. Ma tu e io, anche noi due, perché ci sono allenatori che distruggono i calciatori. Diciamo che Allegri, a differenza di altri suoi colleghi, non ha fatto danni. Ma scusate, Tony, aspetta perché siamo vicini al GR. Però già l'affermazione almeno Allegri non ha fatto danni. Noi parlavamo prima di Benitez, ho visto una statistica su Insigne, 10 gol in 3 anni, quest'anno con Sarri 10 gol in metà campionato e poco più, ad esempio, se vogliamo parlare di allenatori che hanno fatto fatica a ottimizzare i propri gioielli. Grazie Tony. Ciao Tony. Ciao. Grazie a voi, grazie picca. A tutti. Picca. Grazie Tony. Abbiamo un minuto, sì, dai. Massimo da Milano, Massimo. No, abbiamo anche troppo per Massimo da Milano. Io comunque nel dibattito di qui sopra io sono abbastanza d'accordo con Pierluigi, non per solidarietà da compagno di banco, ma perché secondo me Allegri ha gestito e sta gestendo la rosa del Juventus, se non solo Dybala, nel miglior modo possibile, valorizzando e spremendo tutto il meglio dagli giocatori che ha a disposizione, sia nel corso della partita che nel momento in cui decide di impiegare o di promuovere titolari a seconda dei casi. Intanto c'è un amico GB che su WhatsApp ci scrive: buonasera a voi, come tutta la stampa italiana e il mondo del calcio non state aspettando altro che il Napoli perda la testa della classifica. Infatti già da 5 settimane lo scudetto lo vincerà la Juve, e non perché è la più forte sul campo, ma Rocchi, che ha detto la cosa più lampante di questo mondo, lo avete crocifisso. I tifosi. I tifosi, Pierre. Non stiamo aspettando niente. Io ho un'enorme simpatia per Napoli città, sì, per il lavoro di Sarri. Sono stato l'altro giorno benissimo al Castel Volturno. Veramente non è vero, Pierre. Siamo qui che aspettiamo. Intanto aspettiamo il GR. 800-24-0024. Poi torniamo con colui che noi stiamo aspettando cadere, ovvero Maurizio Sarri. Scherzo. Morata non si era mai perso, aveva solo bisogno di far gol, l'ha fatto in Coppa e l'ha fatto oggi, ma già durante gli allenamenti aveva ritrovato confidenza con il gol e di conseguenza ha ritrovato in partita. Tutti convocati. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante, La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30. Solo su Radio 24. Questo non credo. Tutti convocati. Non penso ci abbiano messo assolutamente pensione, noi sappiamo che la Juventus è di un'altra categoria, noi ci siamo trovati momentaneamente a competere solo perché la Juventus ha avuto una partenza difficile in campionato, però la Juventus è palesemente di un'altra categoria. Abbiamo dei grandi attaccanti, però da qui a competere con la Juventus ce ne corre. Questo Sarri, Napoli che è momentaneamente primo, dice, solo perché la Juve è partita ad handicap. Bisogna vedere se i gol di Higuain e Insigne, 32 gol in due, ricordo, più di 15 squadre di Serie A messe insieme, possono colmare il gap con la Juve. Tema che secondo me possiamo allargare, poi tra qualche minuto parliamo dell'attesa del derby di questa sera tra Milan e Inter. 800-24-0024. Pierre, secondo me Sarri è un po' low profile, Sì, guarda, io ci ho parlato un po' l'altro giorno, io penso che lui sia sincero, io credo che lui pensi che la Juve abbia qualcosa in più veramente, soprattutto in termini di profondità della rosa. È chiaro che la Juve è un'altra cosa rispetto a tutte le altre, perché è la squadra che ha dominato gli ultimi campionati e che ha probabilmente ancora la rosa più forte, quindi in tutte le valutazioni che sono state fatte per buona parte del girone d'andata c'era questo tassello mancante che era la Juve, che onestamente a un certo punto sembrava fosse fuori dai giochi, lo dicevano le statistiche, lo diceva tutto, lo diceva anche il buon senso e anche il rendimento, perché poi in queste 12 partite che la Juve ha vinto bisogna anche identificare secondo me due periodi molto diversi. Sì, non sono state tutte uguali. Ecco, all'inizio ha vinto col famoso gol di Cuadrado all'ultimo minuto col Torino, la vittoria a Empoli senza brillare, la vittoria in casa col Milan senza brillare, insomma adesso è un'altra cosa. Poi è cresciuta, anche se io a proposito di statistiche, tu giustamente le citi, segnalo che ad oggi la proiezione per lo scudetto è oltre gli 86 punti. e quindi la Juve dovrà continuare a fare i miracoli, perché poi quando tu parti ad handicap per 10 giornate anche il Napoli, Napoli devono continuare a correre, nessuno si ferma, però, sono due squadre meravigliose, che però tu fisiologicamente da una squadra che vince 12 partite di fila ti puoi anche aspettare che prima o poi qualcosa paghi, cioè se tu hai regalato così tanti punti all'inizio per così tanto tempo come la Juve. Però la proiezione 86-3, lo mettiamo lì come considerazione anche gli amici, visto che Allegri è innamorato di questa statistica, ed è passato da 80-82, carissimo Massimiliano, siamo oltre gli 86, io continuo a scommettere su 85. Sì, cioè poi si dovrebbe alzare la quota scudetto e abbassare la quota Champions League, questo perché le squadre del gruppo del Protone che c'era fino a qualche giornata fa, due squadre hanno ulteriormente aumentato la propria velocità. Anche il Napoli, adesso non so quante sono, credo 6 vittorie consecutive. 6 vittorie consecutive, sì. 6 vittorie consecutive sono un fatto. Voi ricordate che quando il Napoli era passato per la prima volta in testa alla classifica, aveva avuto poi quell'ansia, la prestazione, quella vertigine, la sconfitta a Bologna, il pareggio in casa con la Roma. Da quel momento in poi, da Bergamo in poi, si è completamente sbloccata. Quindi, ma mi sembra una squadra che sta maturando anche il Napoli e non solo la Juventus. Ma sicuramente. Guarda, io anche. Alla fine anche il Napoli ha avuto una partenza etica, il Napoli ha fatto due punti. Sì, però una partenza di 3 partite, la Juve bisogna arrivare fino alla decima. Pier, allora abbiamo Massimo da Milano che abbiamo recuperato, Roberto da Vicenza, Davide da Rimini. Abbiamo anche chi ci scrive, allora anche l'Empoli oggi si è scansato, poi c'è l'amico di prima che fa tutta un'analisi e ci chiede di analizzare l'atteggiamento in panchina di Colantuono e Giampaolo. Poi c'è Massimo da Milano, prego Pier. Perché oggi il Chievo ha giocato senza mezza squadra, quindi un ragionamento lì, perché oggettivamente oggi il Chievo aveva, oltre a Paloschi che è partito, ed è una scelta che non riguarda la partita, ma poteva farne 8 oggi la Juventus. È come se stessimo a discutere che il primo gol di Morata probabilmente era in fuorigioco, perché lo era, ma insomma oggi non è tema, e noi qui non ci tiriamo indietro, quando c'è da discutere lo facciamo, però Massimo da Milano, Massimo. Ciao, grazie dell'opportunità, complimenti per il lavoro che fate. No, volevo semplicemente parlare un pochino dell'Inter, visto che stasera c'è un derby interessante. E il dubbio che ho io è un po' che magari abbiano preso Eder per dare un po' più di normalità alla squadra, cioè una prima punta, una seconda punta, e adesso perlomeno un po' d'ordine lì davanti c'è, nelle gerarchie. Sembra quasi che Mancini non sia riuscito a far giocare la squadra con i movimenti senza palla, con i movimenti giusti, o poi magari, non so, l'attaccante fa vanificare un movimento di un centrocampista perché magari non attacca al lato corto, al lato debole della difesa. Sembra quasi che giochi un po'. Mancini non è riuscito a darci. Invece con Eder è la prima punta, la seconda punta sarà un gioco magari. Eder è un gran colpo. Pier, Eder è un gran colpo. Cioè, prendi la classifica che hanno niente. Insomma, stiamo parlando di uno dei primi 4-5. Aspetta Pier, perché stai andando in cantina. Allora, adesso ci sei. È risparito. Prego. Eder è uno dei primi 4-5 cannonieri del campionato, quindi è un grandissimo colpo. È un grandissimo colpo. Poi, come lo vedi con Riccardi? Lo vedo bene, ma poi insomma si conoscono i tempi della Samp. Ci sta il ragionamento del nostro ascoltatore, ci sta anche quello che in maniera mai banale, mai da 0-0, diceva prima Tavascelli, poi secondo me esagerando un po', però insomma che l'Inter non abbia espresso mai durante la stagione una enorme qualità di gioco, questo è evidente, che abbia cambiato tantissimo, cioè, la fortuna dell'Inter, la forza dell'Inter vera della prima parte della stagione è stata la solidità, una squadra che ha subito pochissimi gol, è una squadra che ha messo un'intelaiatura molto muscolare in mezzo, perché poi per il resto il gioco offensivo non è mai stato all'altezza. E adesso che le cose cominciano a girare un pochino meno bene dietro, arrivano risultati meno buoni. Secondo me è anche un po' una questione di condizione fisica. Non vedo l'Inter brillantissima e potrebbe anche pagare. Dal punto di vista fisico. Voglio dire, cioè io ho visto fare al Napoli delle partite, la famosa profezia, il Napoli detto un po' da pazzo, fatta la quarta giornata dopo Napoli, che noi manteniamo perché così tranquillizziamo tutti gli amici tifosi che ci stanno scrivento, noi la manteniamo. Dopo 4 giornate il Napoli aveva 5 punti, adesso sono 22 giornate, i punti ce n'ha 5, mi sento abbastanza sereno assolutamente sul fatto di averci visto giusto. Certo, con la Juve così noi continuiamo noi la manteniamo. Roberto da Vicenza, Roberto che mi sa mantiene un po' meno. Ciao, buonasera. Prego. Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'opportunità che mi avete dato di intervenire. Grazie a te. Ecco, volevo dire una cosa. La Juve, volevo parlare della Juve un attimo, è incominciata a decollare quando Allegri ha incominciato a dare delle certezze alla squadra, avendo anche in campo un favoloso numero 10, a mio parere, che è Dybala, che si è cercata tutta l'estate di trovare un trequartista, ma a mio modesto parere ce l'abbiamo in casa. Ho già fatto uno stop, io se qualcuno non l'ha visto vado a vederselo, sul finale di partita, su un lancio di 60 metri di Bonucci, qualcosa di clamoroso. Pier, su Pogba, non lo so, io non so se sia un trequartista. No, 9 e mezzo. Non so neanche cosa sia esattamente. Un 8 e tre quarti. No, per me è un giocatore, il meglio lo dà come centrocampista di inserimento, lo dà come incursore, quindi no, non come regista, poi dipende come giochi. Nel 4-3-3 è un intermedio perfetto. Nel 3-5-2 la grande mezzala, dai, facciamo così. Una grandissima mezzala, con dei mezzi fisici enormi, con tanti gol nelle gambe. Ma oggi ho visto anche Dybala che ha fatto una partita veramente da tutto campo, l'ho detto anche in telecronaca, a un certo punto si è messo, fraseggiava con Bonucci, poi per carità, ripeto, è stata una partita semplice, messa subito in discesa con tanti spazi, però Dybala oggi ti ho visto fare delle cose incredibili, oggi paradossalmente non ha fatto, credo, assist, cioè non ha fatto mai l'ultimo passaggio perché veniva dietro, ma ha ispirato almeno 2 gol, quindi e poi c'è l'elemento della giovinezza, cioè questa squadra qui ha cambiato quest'estate e probabilmente ha pagato nei primi 2-3 mesi di equilibri un po' nuovi, ma adesso con Mandžukić fuori ha 3 attaccanti che sono uno del 93, uno del 92, uno del 91. Sì, cioè Zaza è il vecchio del gruppo, è un giovane vecchio. Ci fermiamo, adesso abbiamo il traffico, c'è anche Davide da Rimini, poi allarghiamo anche il discorso al derby, allora, che sta per ragazzi, arrivare. Allora cosa dite se adesso si parla invece di derby? Parliamo della Juve. Qua bisogna fare qualcosa, io non ho la bacchetta magica di Harry Potter. Traffico. Tutti convocati. Amico mio, c'è la nebbia oggi su Milano e vedessi com'è bello fuori, proprio come quando giocavamo soltanto ieri. Amico mio. Scherzando, perché ormai ho perso conto quanti giocatori ho preso Inter. Dico che quelli di Panini dovranno fare una pagina in più per l'Inter. Il tuo amico Mihajlovic ha fatto una battuta, ha detto che la Panini per l'Inter dovrebbe prendere una pagina in più, visto tutti gli acquisti che ti fanno. Fa troppe battute ultimamente. Perché il tempo non ci frega mai. Inter è una squadra forte, quello che nei video è la loro classifica, che è nettamente migliore della nostra, anche se le ultime 5 partite penso hanno fatto 5 punti, perciò c'è un po' di flessione, ma è una squadra che sicuramente fino a fondo lotterà per la Champions, perciò questo derby potrebbe essere come un ascensore, diciamo, chi vince sale, chi perde torna a piano terra. Inter. Non è una partita decisiva, perché è una partita importante, capita in questo momento, è il derby, vincendo il derby la squadra può ritrovare tranquillità e consapevolezza, quindi è questo il vantaggio di giocare il derby, ecco, perché fosse stata un'altra partita tu la vinci e vai avanti, quindi, però alla fine sono sempre 3 punti che sono importanti, perché dobbiamo cercare di accorciare ancora. Amico. È da ieri pomeriggio che ci interroghiamo se Mancini e Mihajlovic siano ancora amici o se Mancini sia un po' stizzito da quelle battute di Mihajlovic, non lo so, 800-24-00-24. Presto a fastizzire Mancini. Ci vuole una sessione di un istante. Fulvio Colovati, ciao. Ciao, buonasera a voi. Ci interroghiamo anche se questo sia un derby ascensore, come ha detto Mihajlovic, verso l'inferno, verso il paradiso. Io insisto, non capisco perché il Milan debba negarsi l'idea di poter arrivare terza in questo campionato, dove le altre, a parte Juve-Napoli, stanno camminando e sono imperfette. Non so, Fulvio, tu come la pensi? Ma non sono così ottimista. sono più, la penso più come Barbara, francamente, che come Gagliani. Gagliani, da dirigente navigato, ha il compito naturalmente di sostenere la propria squadra, compreso l'allenatore, ma insomma il realismo invece di Barbara Berlusconi ti fa capire che in realtà ci sono squadre più forti, con maggior qualità, e ottengono migliori risultati. La realtà è tutto questo, per cui cioè, non riesco a capire quale possa essere la scintilla che possa scoccare per far sì affinché il Milan possa raggiungere i primi tre posti. No, la scintilla è che gli altri non corrono. La scintilla è che Fiorentina, Inter, Roma, cioè le tre che sono davanti al Milan. Mi sembra una resa preventiva, non so se ad esempio ci sia il rischio di dare anche degli alibi a una squadra che di testa non è mostruosamente solida. È anche un inedito che qualcuno della società parli come ha fatto la signorina Barbara, perché di solito lì anche qua sono pronti a vincere lo scudetto e la Coppa dei Campioni ogni anno a parole, no? Ma comunque, no, ma è giusto quello che dite voi, il profilo deve essere sempre alto, però se non è che si può fare la corsa sugli altri che sbagliano i risultati, tipo per esempio la Fiorentina di oggi che ha pareggiato a Genova, oppure che magari perde in casa con l'Empoli. È chiaro che devi pensare tu ad avere un ruolino di marcia decisamente migliore. Mi pare che quello delle due squadre milanesi ultimamente sia l'Inter. Ha fatto 5 partite, 5 punti, 5 partite, cioè praticamente è il Milan che non cambia marcia, per cui cioè, il realismo di Barbara mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Pier, non c'è il rischio anche di dare qualche alibi alla squadra? Sì, ma questo è il classico caso in cui possiamo definire come l'ottimismo della volontà contro il pessimismo della ragione, cioè è abbastanza probabile che il Milan arrivi solo in Europa League, è nettamente l'opzione più probabile in questo momento. Detto questo, un margine di speranza per la Champions c'è, e quindi da un lato Gagliani ha parlato da ottimista e da persona che vuole motivare la squadra e che vuole anche in qualche modo inchiodare la squadra alle sue responsabilità e alla sua storia, e devo dire anche a una campagna acquisti comunque importante, perché insomma certi giocatori sono arrivati con quotazioni importanti e devono dimostrare di essere all'altezza. E dall'altro Barbara dice una cosa di buon senso, perché certamente la soluzione più probabile, l'esito più probabile della stagione del Milan è certamente l'Europa League, non ci sono grandi dubbi. Primi tre posti. Fulvio, ha ragione chi critica Mancini dicendo che più che allenatore è un meraviglioso direttore sportivo. Beh, quest'anno sta facendo anche quello, la realtà è questa. Magari l'hanno preso anche per questo, credo. Ma sai, le critiche diventano automatiche nel momento in cui all'inizio del campionato tu dici alla gente che l'obiettivo è arrivare terzi, e allora a questo punto sei in linea con i programmi della società, per cui il tifoso non ti contesta, puoi fare il mercato che vuoi perché ormai fa il manager, il direttore sportivo giustamente, però nel momento in cui sei primo e illudi la gente, fai 7-8 partite, vinci 1-0 così, illudi, e poi dopo inevitabilmente fai nelle ultime 5-6 partite fai risultati negativi, e automaticamente ti tiri le critiche della gente, questo è inevitabile. Io però critiche fino a un certo punto, perché non, cioè, parliamoci chiaro, Mancini sta facendo il mercato dell'Inter a carisma, gli giocatori, questi giocatori deludono, poi li danno via, così, ma non mi pare che venga molto criticato sotto questo aspetto. Altri allenatori sarebbero finiti sulla forca, parliamoci chiaro. Beh, insomma, non sono tenerissimi, è giorni che sui giornali si esercitano a fare il conto dei giocatori scaricati da Mancini. Pier, oggi Repubblica, 21 giocatori in 14 mesi. Io parlo per me, per noi, non siamo mai stati, non sono mai stato particolarmente entusiasta dell'Inter, anzi avevo sempre detto che non mi convinceva, perché tante vittorie mi sembravano frutto della casualità o di iniziative personali, così come non sono stato, diciamo, particolarmente buono in quel periodo lì, non sento di essere particolarmente cattivo adesso, nel senso che se guardo la stagione ad oggi dell'Inter è una stagione buona rispetto al punto di partenza, è una stagione buona, poi in linea con le ambizioni, continua, no? Certo, hanno sempre detto terzo posto e sono lì. Ma allora scusate, ma allora perché si parla soltanto di Inter? Sinisa, e parlate soltanto di Mancini? Mancini c'è un battaglio di capelli. No, ma è un po' invidioso. Ha la sciarpa di cashmere, sì, capotto. È un po' invidioso. Capotto che sembra la ultima moda. Ah, capotto. Lui è pagato è un po' sempre molto rosicone, ma è un po' rosicone, Mihajlovic, ultimamente Capuano, di Mancini, sì. Capuano, tu prendi sempre per il culo. No, no, tu prendi così, sempre per il culo. Era un'annotazione. E questo non va bene. Sì, faccio delle perché domande. Perché io non c'ho la pacchetta magica, sì, di Jerry Pugno. No, l'abbiamo capito. E tu sai che questo derby potrebbe Harry, essere... Jerry Pardo, tu prendi quelle sempre per il culo. Ma non ti prendono in giro, fanno delle domande. Questo, Jerry, la tua non era una domanda, era una presa per il culo, e questo non mi piace. Perché questo derby potrebbe essere veramente come ascensore, diciamo. Sì, intanto l'Inter ha 8 punti in più, quindi insomma, per quanto ascensore. Sì, hanno giocato, hanno vinto partite con un tiro in porta. Sì, vabbè, valgono anche quelle, porta, valgono anche quello. Punti, il Milan le ha anche perse con un tiro in porta le partite. È un po' rosicone, non lo so. Fulvio, sì. Eder migliora l'Inter? Un grande centrocampista avrebbe migliorato lì. Ed è un attaccante in più, sicuramente, che andrà. Ma dite, ragazzi, è pieno di attaccanti: Ljajic, Jovetic, Palacio, Icardi. Poi dipende come giochi, se metti nella condizione. Se l'Inter, come ha giocato ultimamente, probabilmente sarebbe stato in difficoltà anche Adler, parliamoci piano. Però sicuramente è un valore aggiunto. Ma io tenendo conto che Jovetic sta deludendo in maniera piuttosto clamorosa, assolutamente, che certo. Insomma, Palacio poveretto, siamo agli sgoccioli della carriera. Ma secondo me Eder è un Palacio più giovane, forte, è un Palacio comunque. Più giovane, più forte, no, più integro. Forte, ragazzi, Palacio, no, ha fatto una finale forte, mondiale, no, più forte, più integro fisicamente. Oggi probabilmente più funzionale, momento, più utile a giocare con continuità, quantomeno a dare una mano ai Cardi con continuità. Come Eder finisce sì, prego. Eder viene a fare l'attaccante titolare dell'Inter in coppia con Icardi, sì, quindi secondo me sì, è un grande sì. acquisto. È una bocciatura di Jovetic, cioè adesso non giriamo. Jovetic si è bocciato da solo. Secondo me è anche, come diceva l'ascoltatore, in qualche modo, come fa capire anche Fulvio, la dimostrazione del fatto che c'è poco gioco. C'è poco gioco, servirebbe un grande centrocampista centrale o servirebbe qualche idea in più che non è arrivata. E qualche sprazzo l'ha dato Jovetic, qualche sprazzo l'ha dato Ljajic, però l'Inter ha bisogno di certezze e soprattutto nelle ultime partite, Mancini non l'ha mandato a dire, segna troppo poco in relazione a quel poco che produce. Quindi arriva Eder, che è uno degli attaccanti più caldi del campionato, quindi da questo punto di vista può essere la scintilla. Io non sono negativo in assoluto. Ma intanto Eder gioca quest'oggi, sì, gioca poteva nell'Inter. Arrivare anche lunedì. No, già è arrivato ieri. A Milan non arriva gioca. Nessuno con la bacchetta magica. Mamma mia, è depresso. C'è Boateng che non è in condizione di giocare. Sì, l'hai scelto tu Boateng. Che i giocatori di Milan sono fortunati con le fidanzate. Sì, però... Montolivo e Boateng hanno donne molto belle, guardate loro. Ma cosa ce l'hanno loro più di me? Perciò questo derby potrebbe essere come un ascensore, diciamo. No, chi ha donne belle sale, chi ha donne brutte torna piano terra. Pompidou esce, no, chi no, sale, non chi non va non giù. Non dire niente. No, Pompidou no dai, lascia poi stare. Anche brutto. Pompidou apre... Altre degli scenari strani. Mi fate salutare Fulvio con il suo pronostico del derby. Questa storia dell'ascensore... Ma io mi auguro che, guarda, non lo sai che da ex... No, non dirci un pareggio però, No, tra l'altro oggi sulla Gazzetta è ricomparsa la famosa foto, Fulvio, che immagino tu apprezzi, quella, no? Quella vabbè, mi accompagnerà per tutta la vita. Temo se di uno sì. Ha fatto temo 400, sì. 450 partite in Serie A, non c'è niente da fare. Quella foto lì, quando c'è il derby, poi sono anche tempestati di telefonate, giustamente dico. Comunque, non ti dico sì. Pareggio, ti dico che... in merito a quello che ha detto anche Mihajlovic, io mi auguro che non sia un pareggio, ecco, mi auguro che non sia un pareggio, perché allora sì, insomma, l'Inter avrebbe la possibilità di riscavalcare la Fiorentina, nel caso il Milan avrebbe la possibilità di avvicinarsi quantomeno, sì. Non dico la... insomma, e dimostrare almeno per qualche ora che Barbara Berlusconi non ha ragione, così insomma date ragione a me, grazie sì, Fulvio. Sì. Ciao Fulvio. Ciao. Grazie Fulvio Colovati. Pier, ti salutiamo, a domani. Ciao ragazzi, ciao Pierino. Ciao. Derby. A domani dopo il GR delle 14. Ci fermiamo, poi spazio agli ascoltatori, poi andiamo anche a San Siro per le ultime. Mihajlovic ce lo teniamo fino alla fine. Di questo derby, il nostro Mihajlovic ce lo teniamo fino sempre alla fine. Per il culo, no, è importante che sia un po' meno depresso e un po' meno rosicone. E fa il simpatico per fuori. corsa. Sì. Dai, ci fermiamo, torniamo subito. Buongiorno, mister. Buongiorno. Pensa se fa 2-3 gol veramente Nagatomo. Fanno una statua in Giappone. Anche a Milano, probabilmente. Tutti convocati. Tutti convocati. È un bravo ragazzo, con atteggiamento magari può sembrare che però lui ha voglia e tutto, però purtroppo non riesce a esprimerlo. Come quando ami una donna ma non riesci a dirgli ah, ti amo, ma l'ami, ma non riesci a esprimere, perciò fino a un certo punto va bene. Poi la donna ti lascia però, cioè, quindi la domanda è... Ma, sai, dipende, perché ci sono quelli che fanno a parole e poi non fanno niente, e ci sono quelli che non fanno a parole ma dimostrano con i fatti, dipende quello che ti piace a te. Ti piace più uno che ti dice che ti ama e poi ai fatti non li dimostra, uno che non ti dice che ti ama poi con i fatti ti li dimostra. Cosa ti piace di più? Diciamo che un buon mix delle due cose sarebbe l'ideale. Quello è sempre meglio naturalmente, però nessuno è perfetto. Quando uno si ama bisogna amarlo soprattutto anche per i suoi difetti. Lo so che ho fatto così, ma capisco che dovrebbe capire anche lui, che magari agli occhi degli altri sempre così arrabbiato e tutto non porta, non gli dà sicuramente una mano. Avete sentito questa versione di Mihajlovic, c'è posta per te, Balotelli, sì. Mihajlovic, Balotelli, bello, eh? Posta per te, sì, c'è un amico che scrive, spero che il Milan vinca 1-0 con gol di Balotelli, entrato per soli 5 minuti alla faccia di Mihajlovic. Secondo me questa sera Balotelli lo vede poco il campo. Non lo vede assolutamente, vede la partita dalla panchina e difficilmente si alzerà da quel posto lì. Però alla faccia di nessuno, Balotelli non è chiaramente in condizione, Mihajlovic l'ha provato, anche in Coppa Italia l'aveva detto chiaramente, prova del 9 per chi può ambire a giocare il derby, Balotelli sì, non risposta negativa. Chiederemo alla nostra Claudia Schiattone se preferisce quelli che parlano o quelli che fanno. Adesso poi vi diamo la risposta dopo il traffico. Ma Capuano, sì. tu prendi sempre. Ma l'ho chiesto alla Schiattone. Il simpatico per forza. Tu dici di Balotelli. Sì. Balotelli ce l'ha la macchina veloce, orecchino di diamante. Sì. Lui ha tutta roba extra lusso. Sì. Lui ce l'ha tutto quanto. Quindi... E noi allenatori non ce l'abbiamo niente. Perché arrabbiato è tutto. Ma non è vero. Anche gli allenatori hanno le macchine veloci. Davide da Rimini, Davide. Buonasera. Che non ha la macchina veloce, prego. Buonasera. Davide. Dai, io c'ho, vabbè, lascia perdere. No, io chiamavo per quanto riguarda il confronto tra i due record. Sì, Conte contro Allegri, chi pesa di più? Esatto. Beh, io secondo me in questo momento conta ancora di più quello di Conte, perché comunque è culminato con una annata strepitosa in cui ha battuto tanti record e soprattutto ha vinto lo scudetto. Però bisogna anche dire che già mercoledì questo record potrebbe essere battuto. Ma Allegri soprattutto, ci ha tenuto a precisare, a me dei regoli me ne frega niente. No, cioè, no, ma, beh, io ci credo poco, perché Allegri un po' l'ha sofferta, la nostalgia di tanti per Conte. Giustamente, perché come succede dice quando Mialo, c'è un allenatore ingombrante che vince, è successo all'Inter con Mourinho. Non ha detto a nessuno ti amo, ha risposto con i fatti. Tanto la nostra Claudia Schiattone preferisce quelli che fanno. Ha ragione, e Allegri fa senza stare a perdersi in troppe chiacchiere. Quindi preferisce Allegri, possiamo chiedergli se preferisce Allegri o Conte. Precisiamo anche, perché ce lo chiedono, 349-238-6666, il record è della storia della Juventus, perché il record dei record sono le 17 vittorie di Mancini con l'Inter, stagione 2006-2007. Simone da Bologna, Simone. Sì, buonasera a tutti. Prego. Noi qui siamo un piccolo gruppo d'ascolto, ci chiedavamo. Si sente? Sì, certo. Sì. Simone? Ci chiedavamo qui un piccolo gruppo d'ascolto, se dopo la partenza di Luis Adriano sarà qualcuno per riavvivare questo Milan, oppure abbiamo lasciato i remi in barca e ci facciamo trascinare dal vento. Tanto parte anche De Jong, io non so se i tifosi del Milan non credo che ne sentiranno molto la mancanza. Se sentiranno la mancanza, non mai. Guarda, Perotti va a Roma, non è ufficiale, ma l'ha confermato lui, domani tutto verrà chiuso. Perotti poteva essere un'opzione, anche se giustamente un amico, adesso ho perso il messaggio, scriveva il Milan cerca Perotti che è un esterno sinistro, e Shaarawy è a Roma in prestito ed è un esterno sinistro. Qual è la logica di questa operazione? Perotti ha detto lui stesso, sarebbe da domandarsi anche qual è la logica dell'operazione della Roma. Quindi, però ti ha detto lui stesso, saluto i tifosi del Genoa, vado a Roma, quindi se non ha firmato poco ci manca. Non credo che il Milan non credo arriverà qualcuno, prenderà qualcun altro nelle ore del Condor. Antonio da Roma. Antonio, sì, buonasera, eccoci. Niente, sono un tifoso del Napoli, anche se siamo da Roma. Volevo fare solo un applauso. Aspetta Antonio, io non so se sei col viva voce o con l'auricolare, stacca tutto, no, perché si fa fatica. Allora parla più vicino al telefono, non fare la tua domanda. Esatto. Mi sentite? Sì, prego. Proviamoci. Dicevo, volevo fare solo un applauso a Mr. Sarri, persona vera, sportiva, che da tempo non si vedeva, mai cose banali, ed una cosa soltanto. Chi arbitrava oggi Napoli-Empoli? Chi arbitrava Napoli-Empoli? Il signor Massa. Cosa cambia? Massa, peccato avesse la lista dei diffidati. Aveva la lista dei diffidati. Giusto una battuta. Aspetta. Isai e Allan sono stati ammoniti ed erano diffidati, dici? Sì. E quindi salteranno Lazio-Napoli. Salteranno Lazio, partita importantissima. Nulla da dire contro la Juventus. Squadrone, però intanto non salteranno, probabilmente non salteranno quella con la Juventus la sera della finale del Festival di Sanremo, cioè il 13 di febbraio, no? Anche questo è vero, probabile, molto probabile. Comunque un applauso alle due squadre lì sopra, veramente nulla da dire. Sì, a parte quella punturina sulla gestione dei diffidati, prima o poi già non lo prendono, cioè. Ripeto, oggi all'epoca diceva così. Ho capito, ma se così fosse stato, gli avrebbero alzato il cartellino giallo la giornata prima di Napoli-Juventus. Ma scusatemi tanto, ma questo ascoltatore parla da dentro un ascensore, diciamo. Sì. Perché chi vince sale, chi perde torna piano terra. Non è così. Questo ascoltatore è l'ascensore. Aspetta che però io questa qui non mi era sfuggita, dei due squalificati Allan e Isai, non lo so. Carlo Laudisa, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Hai capito, no? Gli ascoltatori, c'erano due diffidati che salteranno Lazio-Napoli. Non lo so. Perotti va alla Roma, ci siamo? Sì. Countdown, l'ha detto lui, era tutto abbastanza chiaro. Ma è stato vero o virtuale l'inserimento del Milan? Ipotetico, nel senso che c'è stato un momento in cui sembrava che Niang potesse andare via, allora c'è stato un chiacchiericcio lì in Lega fra Preziosi e Gagliani, ma secondo me è durata due minuti. In realtà comunque non c'è stato mai un dubbio che Perotti andasse alla Roma, e quindi alla fine è quella la sua destinazione. Anche perché a cosa sarebbe servito al Milan? Questo per rispondere a chi ci scrive: dai in prestito il Shaarawy, ne prendi uno che più o meno ha lo stesso ruolo, ne hai altri sette tra prime punte, seconde punte, fantasisti, esterni d'attacco. Ma tanto è tutto chiaro. Carlo Laudisa ha spiegato chiaramente che fosse andato via Niang, avrebbero preso in considerazione l'ipotesi Perotti, quindi è tutto lì, ma era già promesso alla Roma, era già della Roma, e comunque l'affare era già fatto, quindi non penso ci sia stato una reale manovra del Milan, che non ne farà altre, no? da qua a domani sera. Tutto è possibile, però questa volta molto meno di altre volte si pensa che il Condor possa allargare le ali, possa prendere il volo. E l'Inter fa qualcosa? C'è questa centrocampo, difensore centrale, No, leggevo qualcosa dalla Svizzera del Sion che blocca l'ipotesi, insomma, di far partire un giocatore che sta piacendo a tanti in questa finestra di mercato, esatto. Ma di la verità all'Inter non ci hanno mai confermato questa pista, quindi io credo che l'unica sorpresa, se tale può essere, è se ci fosse un last minute per Banega, convincere il Siviglia a darlo subito, ma mi sembra una pista problematica. Il fatto che non sia stato convocato oggi dal Siviglia significa qualcosa? Ma credo che lui avesse qualche acciacco, però ci sta anche che lui stia facendo pressione. È anche vero che solo 10 partite gli mancano per raggiungere quel quorum che vale il rinnovo automatico del contratto. E questa è la reale difficoltà che riguarda il futuro di Banega, perché chiaramente l'Inter è interessato a portarlo via subito, perché se no altrimenti per Banega è dura poi passare i prossimi mesi a Siviglia. Certo, evitandosi di giocare. Diventa difficile perché insomma deve praticamente mettersi fuori rosa. Tornando al Milan, De Jong e Luis Adriano, uno va via quasi sicuro, De Jong. Luis Adriano resta in vetrina fino alle 22:59 di domani sera? Sì, De Jong però ancora non è che abbia trovato la casa che lui preferisce, perché il Milan, se arriva l'offerta, gli dà... lo spinge ad andare, lo stesso discorso da De Bernocerino, anche se arrivasse un'offerta per Max Fes. Al momento non è pareggiato nulla, però domani ci sono 23 ore sì. per stare sul pezzo. Sì, per provare a chiudere qualcosa, ci sono 23 ore anche per la Fiorentina. Oggi scambio di comunicati con il River Plate. Ieri River Plate aveva accusato la Fiorentina di essersi comportata da clown nella trattativa per il difensore Mammana. Oggi la Fiorentina risponde che a tradire è stato River Plate. Mi pare che quello più arrabbiato di tutti in mezzo sia Paolo Sosa, anche se poi oggi l'abbiamo sentito, è stato diplomatico, ha detto non parlo più di mercato. Carlo, io non so che impressione hai tu anche sul fatto che i Della Valle possano dargli o no un rinforzo in difesa in quest'ultima giornata di mercato. Ma noto con dispiacere troppo nervosismo a Firenze, una stagione peraltro sinora soddisfacente, quindi anche queste dinamiche del mercato con difficoltà che sono evidenti, perché il River Plate non può vendere tutti e comunque sta cercando di raccattare soldi importanti, e man mano era stato già nel mirino dell'Atletico Madrid, che poi ha rallentato la sua azione per il problema dello stop la FIFA, anche se adesso c'è stato un cambio di corso, però man mano è un obiettivo importante, non è facile portarlo a casa. Mentre tornando indietro, visto che parliamo di River Plate, vedremo domani il Milan se riuscirà a raggiungere un accordo in estremis con il River Plate per Mangioni, per prendere Mangioni, ha già l'accordo con il Rosso e che è un investimento per il futuro. Carlo, ti chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi torniamo così capiamo anche le due genovesi che stanno tenendo vivo questo finale di mercato. Traffico. Il calcio, come ho detto, la gioia, bisogna sorridere, perché è la cosa più bella. Quando uno fa calciatore è la cosa più bella che c'è. Quando una volta smetti, poi dopo ti accorgi quanto era bello fare calciatore, perciò bisogna sfruttarlo e bisogna essere contenti e felici. Tutti convocati. Tutti convocati. Banega è un giocatore del Siviglia, bravo, tecnico, con grande personalità, che è svincolato a fine anno. Questo penso. Ti piace? Sì. Credo che il mercato, la società deve analizzare, deve spiegare, come la proprietà deve esserci, deve giudicare, giudicare se stesso, io lavorare. Lavorare vuol dire anche passare i miei pensieri a chi di diritto, come ho sempre fatto. Non si può avere un allenatore in scadenza, credo che forse sia una mancanza di fiducia. L'aspetto contrattuale è un aspetto formale, di cui non esiste assolutamente problemi di nessuna natura. Giuseppe Marotta ha detto qui i contratti con gli allenatori sono una cosa formale, però sicuramente non inizieremo la prossima stagione con Allegri in scadenza. E cosa devo dire? Se accetta l'invito. ma con la società non c'è mai stato nessun problema, in questo momento le cose vanno bene e tra l'altro siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare. Facciamo il pronostico delle 18.47 del 31 gennaio, ne riparleremo della questione Allegri, rinnovo di contratto con la Juventus. Non so Carlo, se Carlo Laudisa, se anche tu hai questa sensazione al di là dei sorrisi di facciata. Io dico che sarà decisiva la sfida col Bayern Monaco, perché se oggettivamente Allegri batte il Bayern Monaco, diventa un allenatore di interesse internazionale. Mm. Beh, ma non lo è già, Carlo? Secondo me sì. Diciamo che può essere la tesi di laurea. In questo momento Allegri, non a caso in queste settimane sono comparsi sia il nome di Allegri che quello di Conte. Diciamo che i nostri allenatori di punta sono in lista per la panchina del Chelsea e non solo, perché in Premier ci saranno altri ribaltoni. Quindi Allegri che è arrivato in finale di Coppa Campioni, ma se dovesse davvero battere anche Guardiola, io credo che diventerebbe automaticamente il primo della lista. Ecco perché la Juve deve pensare positivo in questo momento. Non è bello neanche insinuare dei dubbi, come se ci fossero delle... Le parole di Allegri mi sembrano limpide. Sì. I risultati parleranno per tutto. Adesso godiamoci, no? Facendo per un momento la parte dello Juventino, nel senso che la Juve ha terminato molto bene in questi anni, anche scegliendo bene Allegri, perché non era facile sostituire Conte. E non dimentichiamo lo scetticismo che c'era intorno al Livornese. Che non è neanche andato via tutto, due mesi fa era qui, viveva e lottava tutto con noi, lo scetticismo su Allegri, quindi è inutile che facciamo finta di dimenticarlo. Due domande flash per Carlo Laudisa, uno sulla Samp che oggi ha perso l'ennesima partita, poi adesso questioni arbitrali a parte, se Ferrero almeno una parte dei soldi che incassa li reinveste, c'è chi dice Quagliarella, però si può discutere per mezzo milione di euro, per carità, per noi mortali è tantissimo, ma sul mercato ma ci sta, che arrivi 24 ore prima o dopo non cambia nulla, no? Se poi riesce a risolvere qualcosina è bravo, l'importante è che lo prenda Quagliarella e io credo che lo prenderà. E Preziosi invece cosa fa del suo Genoa, dove ripetiamo va via Perotti, siamo allo scambio di documenti con la Roma? Ma è tutto un giro, perché ha già l'accordo con il Sassuolo per Floro Flores e verrà evidentemente verrà di ritorno l'attaccante napoletano che bene aveva fatto già al Genoa. Grazie. Quindi Carlo, il Genoa comunque non mi sembra indebolito questa campagna di gennaio, perché alla fine prende Cerci, ha preso Suso. Sì. Suso tra l'altro giocatore che sta rendendo bene, forse il Milan avevano sbagliato a valutarlo. Grazie Carlo. Ciao Carlo. Ciao a tutti. Grazie a Carlo Laudisa. Andiamo a San Siro, Marco Barzaghi, collega di Mediaset. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Ci dai le ultime? Bella notizia. devo le penultime, penultime, perché noi ti avvisiamo Marco che i pullman sono in corsa. Sì. La riunione tecnica da 5 minuti, quindi sta comunicando ai giocatori la formazione. Le ultime, possiamo dire, le penultime di ieri, Ljajic con Icardi ed Er. Stamattina però ha provato nella rifinitura, che forse quella un po' più provante, una formazione abbastanza clamorosa con Ljajic, Perisic e Jovetic alle spalle di Eder, unica punta che porterebbe quindi a una esclusione clamorosa nel derby di Icardi. Sì. Però può essere anche Pretasica, visto che comunque era stato informato Mancini che c'era qualcuno a vedere anche l'allenamento per cercare di spiazzare un po' anche l'amico Mihajlovic. C'era qualcuno arrampicato sugli alberi della Pinetina. Non diciamo chi. Però possiamo dire, io penso che comunque Icardi giochi, anche perché Jovetic ha giocato in Coppa Italia, non mi è sembrato in un grande stato di forma. Icardi ed Er, che poi è una coppia che funziona dai tempi della Samp e che è anche il progetto a cui lui vuole arrivare, insomma, cercare di dare una bocca da fuoco in più a questa squadra. Però attenzione anche al Mancini, che gioca molto coperto, come ha già fatto in tante partite importanti. Solitamente gioca a specchio Mancini in questa stagione. 4-4-2, come anche nell'andata, potrebbe anche essere una possibilità con Perisic e Ljajic esterni, come fece anche contro la Roma, e Icardi ed Er davanti, oppure addirittura anche con l'esclusione di Icardi con Jovetic in appoggio a Eder come unica punta. Però quello che possiamo dire è che Eder è arrivato come Snyder nel 2009-2010 subito in campo nel derby. Sì, intanto il pullman dell'Inter è nei campi intorno alla Pinetina, viste le immagini in diretta del viaggio. Tanta il pullman del Milan è già in autostrada, quindi arriverà prima. Tanta roba a far vedere il viaggio. Arriverà pullman, prima negli spogliatoi. In un derby che non è quello della semifinale di Champions League, non ha esattamente quel punto specifico. No, non ha quella cosa lì. Certo che escludere Icardi significherebbe, credo, bocciare insieme Icardi e Jovetic per l'arrivo di Eder. Tutti ci aspettiamo che sia Jovetic a quello a perdere un po' il posto, poi. Marco. È già stato bocciato. Jovetic, già bocciato. Quindi sarebbe anche un po' sorprendente il fatto che lo rispolveri questa sera in una partita così importante. Però è anche vero che l'Inter non riesce, fino a domenica scorsa abbiamo visto una squadra che non riesce neanche a tirare in porta, con Icardi che sta fermo, non fa niente per avere palloni giocabili, insomma è tutto che non funziona. Vedremo se Eder è la panacea a tutti i mali nerazzurri di questo gennaio da dimenticare. C'è un problema di condizione, Marco, per l'Inter. Qualche amico da casa lo segnalava, mettendolo anche in relazione al fatto che l'Inter è stata l'unica ad andare al caldo con una tournée all'estero durante la sosta di Natale. No, più che altro è stato fatto un richiamo in preparazione, quindi quello potrebbe essere uno dei motivi per cui la squadra non corre, ma non penso che sia la condizione. Quando una squadra proprio non riesce a tirare in porta, c'è di più, c'è comunque stato qualcosa nel post Lazio, come avevamo già raccontato anche qui, qualcosa che si è rotto. Adesso deve essere Mancini bravo a ricostruire, come ha detto anche Handanovic in settimana. L'Inter deve ritrovare concentrazione, cattiveria e soprattutto compattezza, e questo spiega un po' anche il momento nerazzurro. Intanto pare confermate invece tutte le indicazioni della vigilia sulla formazione del Milan, quindi con Bacca, Niang davanti, con non c'erano grandi dubbi, no? E con insomma il 4-4-2 che ha contraddistinto le ultime settimane di Mihajlovic. Grazie Marco, buona partita. Ciao. Buona serata a voi. C'è chi chiede, così rispondiamo uscendo dal derby, se vale più la striscia di vittorie della Juventus o i risultati che sta facendo Donadoni col Bologna. Bah, imparagonabili, cioè Donadoni sta facendo una stagione meravigliosa con il Bologna. Allegri ha fatto con questa striscia un mezzo miracolo, perché quale vale di più, quella di Conte o questa? Questa possiamo notare che corre senza, sul filo, senza rete, perché non poteva mai sbagliare per tornare sul treno dello scudetto. A proposito di allenatori, un altro amico scrive: chissà chi l'ha fatta fare a Montella di andarsi ad infilare nel caos della Sampdoria. Montella che viaggia a 0,70 di media punti. So che non vi fanno impazzire le statistiche, ma è a meno della metà di quello che ha fatto Walter Zenga per le prime 12 giornate di questo campionato. Come finisce stasera derby Milan-Inter? 1-1. Pareggio che non serve a nessuno. A nessuno. No, beh, all'Inter, per carità. La terrebbe lì aggrappata al terzo posto della Fiorentina. Perché altrimenti domani si apre. Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli. Sì. Il vaticinio per questa sera, per il derby di Milano. Facciamo, interessa. E che la partita, per una volta, finirà molto nervosamente. Che vuol dire? No, ma come sarà finisce una partita il risultato? Particolarmente nervosa. Sì, ma non ci è. Ci saranno delle occasioni da una parte e dall'altra. Ma questo è scontato, è una partita, è un derby. Utor Kalem, derby Ausim Genta Peron. Una delle due squadre potrebbe vincere questo derby. Sì. Ah, però. Questi sono i grandi pronostici. Oppure potrebbe non vincere. Potrebbe. No. Potrebbe anche succedere questa evenienza. Cioè che cosa? Che nessuno vince. Che si potrebbe pareggia. Finire 0-0 dopo una partita molto nervosa. Vabbè. Molto salutiamo utile. E benediciamo. No, i nostri salutiamo noi. È finita qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Filippo Aureggio, Valeria Bernardi in regia, il nostro Andro Mercù con le sue voci. Domani torna tutti convocati dopo il GR delle 14. Jerry Potter. Noi invece torniamo domenica dopo le partite, quindi alle 17. Ciao Carlo, ciao a tutti. Giovanni, ciao a tutti. Questo derby potrebbe essere come un ascensore, diciamo. Chi vince sale, chi perde torna piano terra.